abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si ricomincia. Buona per Lichtsteiner, il tocco dentro, la deviazione, 1-0 Juve. Ed è Mandžukić che trova il primo gol del campionato. Ragazzi, sono stati bravi, considerando l'inizio della stagione dove non abbiamo una condizione ottimale. Queste partite è importante vincerle per poi lavorare con più serenità. Squadre che vincono camminando e giocando solo a calcio pulito è difficile che riescano a centrare gli obiettivi, ma ragazzi sono bravi, lo sanno, oggi hanno interpretato la partita al meglio, di questo sono contento. Taglia la strada su Prajen, va con l'esterno, un po' largo per Milik che va alla conclusione e trova il gol del raddoppio. Sotto Alexander Kolarov, esordio con gol nella Roma, sotto la barriera, un calcio di punizione intelligente. Io so trasmettere un determinato tipo di calcio che oggi si è visto solo in alcune situazioni, più caratteriale, più con la voglia di portare a casa i tre punti, magari meno nella qualità del gioco, ma oggi è una partita che si doveva vincere anche in maniera sporca e noi da grande squadra che dobbiamo essere l'abbiamo fatto. Lancio di Nagatomo per Icardi, controlla Colpetti, Icardi in area di rigore, contatto con la storia, va giù, calcio di rigore per l'Inter. Icardi contro Sportiello, destro di Icardi, 1-0 per l'Inter, si ricomincia come sempre dal migliore in campo dell'Inter. Un pubblico di quelli calorosi, vogliosi di trasmetterci il loro affetto. La squadra è entrata bene in campo, ha giocato subito un buon calcio. Se Icardi non prende il tempo bene, se Ivan non gli mette quella palla tagliata, poi diventa difficile. Io non la butto dentro, perché io ho una squadra che ha qualità e che ha forza, per cui dobbiamo andare a giocarci le partite per vincere contro l'Inter. Buon movimento di Suso che si gira, circondato, alla palla sul destro, vuole il cross, lo mette! Cutrone, più veloce di tutti, sul primo palo ha conquistato il rigore e va a segnare la rete del 2-0. Che impatto! Naturalmente l'espulsione con rigore c'è un po', rigore con, insomma, conquistato si è un po' agevolato, ma la squadra, proprio in quel frangente, la grande squadra, ha cercato di chiudere la pratica, non accontentarsi. Poi, per dire il vero, un po' la squadra si è rilassata dopo il 3-0, cose su cui dobbiamo lavorare. Ogni situazione va vissuta, va capita e va interpretata in una maniera migliore, cosa che sinceramente qui non abbiamo fatto. Buongiorno a tutti, Claudia Schiattone, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, 800240024, bentornato campionato. Avete sentito un riassunto della prima puntata, molto, molto corposo, l'ultimo che avete sentito, Vincenzo Montella. Saluto mio amico Pierluigi Pardo, come stai? Come va? Bene, bene, bene. Pronti per Tiki Taka? No, non tanto bene. Non che tanto succede? Bene. Molto arrabbiato, ti dico la verità. Che ti hanno fatto? Che mi hanno fatto? Che ci hanno fatto? Questo, questo. Se ci saranno tutte le coperture finanziarie, questa società ha fatto delle cose pazzesche. C'è il sé, perché insomma, ancora bisogna mettercelo, perché sono stati talmente tanti gli investimenti che aspettiamo poi ovviamente di vedere tutto quanto nero su bianco, insomma. Allora, questa, come sapete, è Ilaria D'Amico, ieri a Sky Calcio Show ha detto una cosa banalissima che diciamo da sempre, e ieri ho assistito all'episodio più violento e volgare che abbia mai visto intorno allo sport, perché Vincenzo Montella, che avete sentito, era da un'altra parte, perché il Milan non ha mandato nessuno parlare con Sky Calcio Show. Esistono dei contratti, esistono dei contratti con un sacco di grano in ballo. Se non avesse detto Ilaria D'Amico, nessun problema, l'ha detto lei, moglie di Gigi Buffon, eccetera eccetera, ed è successo questo. Devono vergognarsi, a mio parere, devono vergognarsi anche i tifosi rossoneri che dicono non è imparziale, ce l'ha solo con noi, disdiciamo un abbonamento. Facciano pure, ma si vergognino. Detto questo, parliamo pure di campionato, della barra e di tutte queste belle cose. Pierluigi Pardo, amico mio, Sì, sì, sì, no, io dico semplicemente però che secondo me, al di là del fatto che insomma il mio auspicio è che l'episodio si ridimensioni, stiamo parlando di persone di una grande società e ovviamente anche di una grande professionista. In generale è chiaro che nel momento nel quale noi commentiamo quello che stiamo vedendo, cioè il più grande mercato della storia del calcio in tempi recenti, perché quello che sta facendo il Milan in questi mesi è una rivoluzione impressionante. Commentiamo quello che si vede, quindi commentiamo quello che succede sul campo. Siccome allo stato dell'arte non mi pare che ci siano dei segnali tali da pensare che questi soldi provengano da luoghi strani o che non ci siano queste coperture, poteva sembrare un po' gratuito tutto qui, ma ecco, il mio auspicio è che sono straconvinto che si chiariranno tra di loro, perché insomma secondo me c'è poco da chiarire. Dovuto all'adrenalina, secondo me, del momento. Guarda, secondo me c'è poco da chiarire, c'è soltanto da chiedere pubbliche scuse. E non deve certo farlo il Real Madrid. Detto questo, dico anche che una società che ha speso tanti soldi ha anche il diritto, insomma, fino a prova. Se qualcuno ha delle prove che non ci sono queste coperture, allora le porti. Queste prove, ma se non ha queste prove, il discorso è un po' assurdo, altrimenti tu potresti dire: ah, questo giocatore è cresciuto tantissimo. Pierluigi, poi la finiamo. Saluto Emiliano Mondonico. Io dico soltanto che Ilaria ha detto una cosa che noi diciamo tutta l'estate, almeno io, Marco Bellinazzo, che è un guru della finanza applicata al calcio, dice da tutta l'estate. Che Sebastiano Barisoni dice da tutta l'estate, che ogni economista uomo di finanza dice da tutta l'estate, in questo caso sì. Ma io quello che penso molto banalmente, anche leggendo Bellinazzo e tutti gli altri, è che il Milan, quello che ha fatto quest'anno, quello che sta facendo quest'anno, è semplicemente un all-in, per usare un gergo pokerino. Certo. Cioè, certamente sta facendo un'operazione finanziariamente molto molto importante, mettendo sul budget di quest'anno, sulla campagna acquisti di quest'anno, degli investimenti che probabilmente sono di più anni, ma è ovviamente un'idea che nasce dalla volontà, con le quattro squadre italiane che andranno in Champions l'anno prossimo, di tornare immediatamente nell'elite, perché poi questi soldi torneranno. Mi sembra abbastanza chiara la strategia. È un all-in, è un se un ci sono le coperture finanziarie, dico io. Se... Sì, ma questo vale per tutti, però scusami. Per carità, allora, con pardon della dama de los hombres, per tutti, però, vale per tutte le società, se ci sono le coperture finanziarie. Il Milan, sicuramente è qualcosa di inusuale. È sicuramente qualcosa di clamoroso, perché sta facendo una campagna acquisti pazzesca, e quindi ci può stare ovviamente il dubbio, però questo tipo di ragionamento vale per qualsiasi società, per qualsiasi tipo di investimento, no? Certo. Ci sono degli organi competenti che devono controllare che queste garanzie ci sono. Te li saluto io quando li trovo. Te li saluto io quando li trovo, te li saluto io insieme al Parma, insieme al Palermo. No. Tutto qui. Ma detto questo, io sono convinto, sicuro che l'episodio, sono già certo che insomma sì. Poi le diplomazie si parleranno, perché chiaramente insomma non credo, sono stracerto che non ci sia nessuna motivazione personale, certo. Se sono fatto un equivoco, me lo auguro. Saluto anche sia Sky e il Real Amico che Milan. Sono convinto che con grande affetto di Sky e la Real Amico. Assolutamente. Da Milano mi aspetto le scuse. Emiliano Mondonico, ciao. Parliamo italiano. Ti sei annoiato? No, non ci ho capito niente. Perché avete fatto i nomi di tutti quelli che ne parlano da un anno e non so neanche chi sono. Ignorante come sono in materia, non ci ho capito niente, ed è giusto così. No, tutti quelli che hanno detto che era così, era colà, era giusto così, cioè ci sono nomi che io non capisco. Magari sono dei grandissimi cultori degli investimenti, però non li conosco, e perciò per me sono così. Cioè, sono degli meriti sconosciuti. Stai parlando perciò... dei cinesi, dici, del nuovo vorrei parlare cinese, ma anche lì sono in grande difficoltà, perché l'unica parola che ho, che so di cinese è... No, comunque ti stai riferendo... Chulenlai. Sì. Sì. Abbiamo capito. Chulenlai. Chulenlai, che ai nostri tempi dicevano Chulenmai. Che era un fratello di Chulenlai. Senti, Chulenmai, cosa ti è piaciuto e cosa no di questa prima? Cioè, questa prima che ha fatto vedere le sette sorelle. È chiaro che ci sia questo Chievo e questa Sampdoria che nessuno pensava e nessuno pensa faccia parte delle sette sorelle, però le altre di Rifo di Rap sono già partite col freno a mano giù tutto e con l'acceleratore proprio schiacciato. Mi sono piaciute. Mi è piaciuto anche Roma-Atalanta, dove la Roma ha vinto su estraggio di punizione, ma l'Atalanta se l'è giocata. Diciamo che sono state partite che dalla prima di campionato, eccoci qua, le cinque sorelle. Chi saranno le altre due? La Lazio? Secondo chi me saranno? Sì. Il Torino? Ah, io vedo la Lazio continua a vederla benissimo, il Torino anche. La Lazio ieri non bene. Non bene, perché quando giochi dopo la Juve e affronti una squadra che magari è più una provinciale che una grande, non hai lo stesso andamento. La stessa garra, non è la stessa cazzina. Un andamento lento. E perciò è chiaro che se hai un andamento lento paghi dazio. Poi vorrei che parliamo della VAR. Va bene, lo facciamo subito dopo. Lo facciamo anche dopo. E parleremo di questo subito dopo il traffico. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Convocati. Allora, musica adatta, bella grintosa per parlare della VAR. Prego, signori. Pardo? Sì, sono qui. Allora, rifaccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Emiliano Mondonico. Sua maestà, cioè, cosa ti è piaciuto, cosa no, di questa prima di campionato? E poi andiamo su quell'altro argomento lì di telegenetica, dai. Pier. Ah, io parto io. Sì. Ma innanzitutto, guarda, approfitto della presenza del professor Mondonico per parlare di Toro, nel senso che mi sembra, e tanti tifosi del Torino, soprattutto quelli tanti pieni di ironia, ieri l'hanno scritto su Twitter, sembra veramente incredibile, no? Nel destino meravigliosamente romantico, in certi momenti tragico, del Toro. Succede una cosa veramente solo al Torino, cioè ieri abbiamo visto l'esempio, ne avevamo parlato anche ieri sera prima della partita di questa ipotesi, e ne avevo parlato anche l'altro giorno con l'arbitro di VAR di Juventus Cagliari, e se ne è parlato in questi giorni con Rosetti nei vari incontri. C'era un possibile punto debole del VAR, e cioè la situazione che è il contrario del gol annullato perché c'è un fuorigioco, cioè il gol dove non c'è fuorigioco ma con l'azione che viene fermata prima dall'arbitro. E come sappiamo, l'indicazione che è stata data ad arbitri e assistenti è quella di far giocare, proprio perché potrebbe esserci stato un errore. Ieri l'errore è stato clamoroso, il gioco è stato fermato, e alla fine di questa prima giornata il, diciamo, let it fail, non tanto del VAR, perché poi lì non è stata la tecnologia, ma è stata l'applicazione e l'impossibilità di applicare il VAR. Insomma, chi se l'è presa lì è il solito Toro, meraviglioso, romantico, meraviglioso, e prima vittima della VAR, di questo uovo di Colombo. Professor Mondonico, dica. Il VAR è la salvezza dei guardalini. Perché ormai non vai più due guardalini e dici: non hai visto, come fai, cosa hai segnalato, una balla e l'altra. Ormai vai dall'arbitro e dici VAR. E chiaramente l'arbitro sta lì, poi alla fine fa questo segno, tac, che uno dice: oh, siamo al cinema. E allora succede questo. Da quando io ho conosciuto il calcio, sui calci d'angoli c'è un fallo a favore e un fallo contro. Sì. Cosa fa il VAR? Fa vedere quello che ha fatto fallo, quello che ha subito, l'altro giocatore che l'ha subito. Però è chiaro che se io fossi un guardalinea sarei molto molto contento della predisposizione di questo, di queste soste. Lo strumento, certo. Perché vediamo come va. Cioè, sì, sì. Ponzio Pilato. Bravo. Se c'è da evadere una responsabilità, siamo bravissimi in questo paese. Ma che è l'uomo di linea, l'uomo che vede se la palla è dentro o fuori. Anzi. Tutte quelle cose lì che si impazziva. Sì, sì, e sì. In questo momento abbiamo risolto tutto quello che poi succede. Bravo. Guarda linea con la sigaretta in bocca. E... Mamma, guarda linea. Ma secondo me adesso ho visto alla Vuelta, parlando di ciclismo, che davanti ai rondò in qualcuno c'è il vigile, in altri c'è uno di legno, sì, con le bandiere gialle che muovono da una parte e dall'altra. È così, no, pardon, anzi proponiamo l'abolizione della figura del guardalinea, già che ci siamo, Pierluigi. Bravo, mettiamo due fantocci. Ti ricordi gli spettatori finti dello stadio di Trieste? Bravissimo. Diciamo quello che mi ha un po' messo dubbio è quello dei due falli sui calci di punizione, sì, che dove c'è sempre un rigore o un fallo contro. Ragazzi, però se dopo, posso dire, fare una riflessione così che mi viene istintiva, se alla prima di campionato con la VAR siamo già qui a fare tutti questi discorsi, mandi buona, ma no, invece no, io credo che la prima parte, che insomma le cose miglioreranno perché era la prima volta anche per arbitri, assistenti, sì, eccetera, ma secondo me già si è capito che ci saranno degli errori che vengono corretti, e quindi alla fine, siccome poi dobbiamo anche valutare quasi numericamente, statisticamente, sulla quantità degli errori, ce ne sono di meno, perché il rigore dell'altro giorno del Cagliari era calcio di rigore, perché comunque ci stava il rosso per chiara occasione del gol sul calcio di rigore per il Milan, perché ci sono stati molti casi di applicazione del VAR silente, come si dice in gergo, cioè che non ce ne siamo accorti, ma nelle situazioni nelle quali c'è stato comunque il colloquio, il check da parte dell'arbitro del video, che ha dato una conferma all'arbitro in campo sulla bontà del suo operato, ma rimangono delle zone d'ombra, da correggere. La più clamorosa è quella di Bologna, dove fra l'altro a un certo punto si era creato anche un problema tecnico, e rimane anche poi la discrezionalità dell'arbitro. Per esempio, secondo me, Fiorentina, secondo me, quella è rigore. Sì, speriamo che rimanga la discrezionalità dell'arbitro, se no mettiamo anche lì l'omino di paglia. Ragazzi, vi va di parlare, visto che questo argomento poi lo riprendiamo, vi va di parlare un po' di pallone giocato? Perché io voglio chiedere a Pierluigi Pardo e Emiliano Mondonico come hanno visto le grandi e che cosa hanno trovato in queste partite di positivo e o di negativo nelle partite di, sappiamo, della Juventus e del Napoli, che hanno aperto le danze, e poi di Milan e Inter, che erano molto attese. Emiliano. Napoli 80 minuti da urlo. Da urlo, da squadra che vince lo scudetto a mani basse. 10 minuti finali dove sembrava che ci fosse in campo un'altra squadra, dove ha rischiato di prendere il secondo gol e dove ha subito così l'attacco del Verona. Ecco, è questo, sono questo 80 minuti e 10. Qual è la verità? Secondo me la verità è tutte e due. Il Napoli deve chiaramente insistere anche per tirar via questi 10 minuti. Certo, è chiaro. Magari tirando via qualcosa negli 80. Qualche difettuccio strutturale, che tipo la fragilità sui palloni volanti, sui calci piazzati, eccetera. Quello è da correggere. Non dimentichiamo anche che il Napoli, per ovvie ragioni, è un po' più avanti di tutti gli altri, Pardo. Sì, ma il Napoli Champions. Certamente Napoli e Milan sono le due squadre che hanno avuto i preliminari, certo. E quindi sono le due squadre un po' più avanti fisiologicamente. Devo dirti, a me il Napoli piace tantissimo. La cosa secondo me positiva di Verona è che c'è stato turnover, è che c'è stato spazio per Milik, perché secondo me, lo ribadisco, il Napoli per arrivare fino in fondo con 50 partite da giocare deve fare una rotazione un pochino più scientifica degli uomini. Sarri negli anni scorsi ha fatto delle rotazioni abbastanza marginali, è veramente tipo i periodi di Picasso. C'è stato il periodo di Avarà, c'era il periodo, no, ti ricordi? Il periodo Rog, che è stato da febbraio in poi. Che per sei mesi non ha giocato. L'anno prima ci fu il periodo Valdifiori, poi Napoli in Bruce con Jorginho. Quindi da questo punto di vista, secondo me, visto che ha qualità e quantità di uomini, deve ruotarli. Certo, però secondo me Verona è un segnale molto, molto importante. Dal punto di vista offensivo, avere un attaccante come Milik, comunque di peso, è importante, è una risorsa importante. Il Napoli migliore, quello che fa innamorare tutti gli esperti, è quello che gioca quello con la palla a te, beh, chiaro, quello che fa un altro gioco più brasileiro. Posso dirti chi non mi è piaciuto? Chi ieri ha rischiato, cioè chi ieri ha sicuramente ha giocato per retrocedere? Il Crotone, il Cagliari, il Bologna, e come quarta squadra l'Udinese. Ecco, queste sono le quattro squadre che sicuramente, secondo me, non hanno fatto la partita che sono in grado di fare. Beh, il Cagliari ci ha provato, mister, scusami se non sono d'accordissimo. Il Cagliari, secondo me, ha fatto una prima mezz'ora, primi 40 minuti, fino al gol del 2-0 che ha chiuso il primo tempo, di pressing alto, forse troppo, diciamo. Cioè, paradossalmente ci può essere il rischio opposto, ha messo, forse sta andando a prendere troppi rischi. Non lo so, però a me non è dispiaciuta complessivamente. Se l'è giocata alla pari. Come fai a giocartela alla pari? Cioè, se io vengo contro di te a fare l'opinionista, come posso pensare di giocarmela alla pari? O dico qualche cavolata, oppure abbasso la testa. Questo ci sta, questo è un dubbio che onestamente avevamo anche raccontato la partita allo stadio, perché raramente ho visto in campionato squadre anche più importanti di livello e di valore affrontare la Juve in casa della Juve con questo tipo di atteggiamento. Probabilmente è stato un rischio esagerato. Certo, cioè, che la Juve abbia confermato. Ma sai, Pier, un po' spagnoleggiante questo atteggiamento, perché sappiamo bene come in Spagna, ad esempio, accade il campionato che incensiamo tutti i giorni, provinciali, diciamo così, per semplificare, vanno a giocare sul campo del Barcellona, del Real Madrid, dicono tanto perdiamo, ce la giochiamo a viso aperto, finisce 8-0. Andrea da Milano è il primo ascoltatore di oggi, 800-24-0024, prego. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione, ovviamente. Sono un tifoso milanista, uno di quelli che invece ha apprezzato quello che ha fatto ieri la società, ovviamente questo è il mio parere, ci mancherebbe altro, perché secondo me non è giusto che ogni giorno qualcuno si svegli e metta il dubbio sul mio sulle questioni finanziarie. Secondo me il lavoro del giornalista dovrebbe quello, oltre che informare noi tifosi, ma anche quello di cercare prove e poi parlare, per aggiungere il se possiamo farlo noi tifosi al bar, persone normali, ma il giornalista dovrebbe invece cercare le prove, che il Milan ha già risposto una volta a Pallotta. Non è che adesso può rispondere tra tutti quelli che mettono in dubbio. Perché Pallotta può dire quello che ha detto, è un giornalista, no, anzi, io la vedo al contrario, cioè nel senso che facciamo i giornalisti e non facciamo i portavoce. Detto che, Andrea, non dimentichiamo che lor signori prendono i soldi che prendono, e Pardo lo sa benissimo perché lavora lì, grazie anche a noi, sicuramente, al lavoro che facciamo. Guarda, l'elemento, secondo me, l'elemento in assoluto sul quale invito, siamo all'inizio del campionato, fa caldo, siamo tutti, è che una frase che possa essere malinterpretata, cioè qui non è che c'è stata una campagna nei confronti del Milan, ecco, questo mi sento veramente di poterlo dire, è una frase. Io sono dell'idea, ovviamente, che come nel diritto, no? Cioè l'onere della prova. Nel momento nel quale ci dovessero essere delle inchieste approfondite di gente che va e dice guardate che Milan questi soldi non ce l'ha, benissimo, se un giornalista si presenta con un lavoro documentato su questa roba qua, benissimo, ma se questo non succede, non è che ogni giorno si può andare a dire al Milan ma come hai fatto a comprare questo? Lo facciamo dire a Belinazzo, secondo me era una frase insomma, ma ti ripeto, io sono sicuro che già da oggi le diplomazie di un lavoro, anche se lavoro per un'altra azienda, Sky ho tanti amici, spero veramente. Ma non è questione di azienda, è una questione di rispetto delle persone, Pierluigi, perché se tu vai in America, poi lascia stare, insomma, ma riprendiamo domani perché la rabbia non mi sarà sbollita. Tu vai in America, Michael Jordan, che era il dio del basket, il dio dello sport in terra, si sedeva nel suo angolo, nello spogliatoio, e fino a quando l'ultimo cronista dell'ultimo sfigato giornale di provincia, lui stava lì a rispondere alla domanda. Qui con affetto. il caso del Napoli, io non ho capito perché il Napoli non ha parlato. Ha vinto con Nizza, ha vinto, guarda, a Verona. Siamo, cioè, siamo alla folla. Al di là del fatto che poi si parla pure quando si perde. Dobbiamo stare. Non l'ho capito. Perché li pagate, Pierluigi? Perché questi signori li pagate voi delle TV? Ragazzi, chiariamoci. Un'ultima cosa per Emiliano Mondonico: l'Inter, mister. L'Inter mi sta sorprendendo, perché non pensavo che questa squadra fosse squadra e fosse gruppo. È sempre stato un loro problema, quello di avere degli ottimi giocatori ma di non essere squadra. In questo momento mi sembra che Spalletti la stia facendo diventare una squadra. Io mi auguro veramente che l'allenatore riesca a fare questo, perché allora troveremmo l'Inter in lizza per vincere lo scudetto. Se invece vedremo la solita Inter, che non è fatta di cattivi giocatori, ma sono fatta da giocatori che giocano da soli. Questo è stato il grande guaio dell'Inter. In questo momento tanti complimenti. Siamo alla prima di campionato, l'unica partita vera che c'è stata è stata Roma-Atalanta. Perché parliamoci chiaro, ha vinto la Roma, però l'Atalanta se l'è giocato alla grande, e ti dirò che secondo me una delle sette sorelle sarà l'Atalanta. Sarà l'Atalanta. E quando dico di sette, se dico, parlo di sette sorelle, vuol dire che quanto quarta, quinta, sesta, settima, questa può essere l'Atalanta. Non transigo il quarto posto. Non transigi il quarto posto. Senti, trovo che la vittoria della Roma di ieri sia stata. Me lo dici dopo, Pier, perché sì, problemi di tempo, di vai, tempistica, vai, vai. Di traffico radiofonico, perché c'è la borsa. Saluto e ringrazio Emiliano Mondonico. Quindi grazie a lei. Sentiamo la borsa, torniamo dopo. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Tutti convocati. Gran pallone, Cutrone, subito Cutrone, la palla è sul fondo. Che occasione per il Milan, ma contatto e calcio di rigore. E qui potrebbe subito entrare in gioco la VAR. La decisione dunque è calcio di rigore e cartellino rosso. Bisogna abituarsi al tempo, quello sì. Ma però siamo in campo, siamo tutti più sereni, gli allenatori sono più sereni, anche gli stessi calciatori sono molto più sereni. C'è il tocco con la gamba sinistra di Miranda sulla gamba sinistra di appunto di Simeone, vediamo che lo fa autosgambettare, quindi in questo caso è un contrasto negligente, quindi poteva portare alla concessione del calcio di rigore. Credo che quando ci sia un episodio così dubbio, perché mi sembra che anche della televisione rimanga ancora il dubbio, avrei preferito che fosse tagliavento, andare a vedere il monitor per poi prendere decisione. Se poi la decisione rimaneva quella, accettiamo, ci mancherebbe altro. 19.000 più noi che eravamo in campo, e tutto unico lui era quello che non vedeva che palla non, a Bellotti, e quello non gli ha dato rincon ma destro. Questo è stato il primo sbaglio. Il secondo sbaglio è stato che, come ci hanno detto noi, nel dubbio non si deve fischiare, si deve lasciar finire azione e poi dopo entra VAR. Per questo che serve. Se lui avesse lasciato nel dubbio giocare, a fine con VAR, gol era regolare. Anche prima della partita, come siamo sfigati, se dovesse succedere qualcosa capiterà sicuramente a noi, è successo. Mi sono tirato sfiga da solo. E lì torniamo sui tre episodi più contestati, torniamo all'argomento VAR, errore di Mariani in Crotone Milan, errore di Tagliavento in Inter Fiorentina, errori tecnici vari assortiti in Bologna Torino, tra poco ne parliamo. Però volevo che Pardo finisse il discorso che aveva iniziato sulla Roma, perché non che è una vittoria pesantissima, è veramente una vittoria, è la notizia secondo me di questa prima giornata, non perché la Roma non potesse vincere a Bergamo, ma perché comunque insomma è una vittoria in casa di una grande squadra, comunque di un'ottima squadra. Anch'io ho la sensazione come Mondonico che l'Atalanta magari non ripeterà il campionato dell'anno scorso, ma secondo me è dal lato sinistro della classifica senza grandi problemi. E quindi secondo me la vittoria di ieri è pesantissima. Poi era una delle più attese la Roma, perché con tutti i cambiamenti che ha fatto, abbiamo detto molte volte che è basata su un gioco di incastri e di scommesse la riuscita di campionato della Roma. La squadra è ancora molto forte, la squadra è ancora molto forte. E tra l'altro da qui al 31 agosto dovrà fare qualcosa. Certamente, lo dicevamo ieri con Bogalelli, è abbastanza sorprendente che una squadra che chiude al secondo posto il campionato e quindi ha la certezza della Champions League, invece di investire pensi soprattutto a vendere, ma insomma sappiamo, l'abbiamo parlato tutta l'estate, c'erano questioni evidentemente più grandi. Credo sia una vittoria che può veramente svoltare la stagione, nel senso che a Roma in maniera particolare è importante partire molto bene, certo. In più quest'anno c'erano mille incognite, c'è un allenatore nuovo, ma ci sono ancora comunque, perché una vittoria non le ha dissipate, pare Inter, che non è una partita appunto, chiaramente banale, che ti porti a casa, però insomma intanto Di Francesco lavora molto più tranquillo e molto più sereno questa settimana. Nonci ha più serenità nel costruire questi due acquisti che servono, uno davanti e uno dietro, per completare la squadra. E poi il centrocampo della Roma è fortissimo. Andrea De Marco lo conosci? Beh, abbastanza. Abbastanza. Ex arbitro naturalmente, commentatore opinionista di queste faccende su Mediaset, come sapete. Ciao Andrea, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, a voi. Ciao. Allora, dicami lei di VAR, cantami o divo di VAR, questa cosa qui ti è piaciuta, la pensi come Mondonico secondo cui a posto di guardarino adesso possiamo mettere i fantocci di paglia, esiste ancora discrezionalità dell'arbitro, che secondo me è una cosa sacra? Beh, sicuramente esiste ancora la discrezionalità dell'arbitro, l'avevo visto ieri negli episodi che si sono verificati. Il VAR servirà soprattutto a cancellare quegli errori, come dice il termine inglese, clear mistakes, quegli errori chiari ed evidenti, quelle situazioni dove, non so, ad esempio un gol segnato con la mano, un fallo nettissimo non visto all'interno dell'area di rigore, sulle situazioni proprio che sono non interpretabili dall'arbitro. È chiaro che ce ne saranno altre che sono interpretabili e che quindi dovranno essere accettate come tali. Ogni arbitro avrà le sue nel momento della partita il suo modo di vedere, di valutare una situazione, e questo lo dovremo accettare. Sì. Chiaramente su altre cose mi è piaciuta molto nelle situazioni che sono verificate ieri, soprattutto anche l'atteggiamento in campo dei calciatori, come ad esempio in Crotone Milan, quando è stato cambiato il provvedimento disciplinare dal giallo al rosso, non c'è stato un calciatore che ha protestato nei confronti del direttore di gara. Lo stesso il calcio di rigore concesso sabato a favore del Cagliari, anche in quel caso lì hanno aspettato che l'arbitro prendesse la decisione, e quando ha deciso per il calcio di rigore nessuno ha protestato. No, magari si giocano anche loro più tranquilli, anche se tutti quelli che dicono adesso rivedremo il Verona e il Cagliari vincere lo scudetto possono anche sognare o cambiare canale, perché beh, sì, non, sicuramente ovviamente poi non è così. Essendo anche un esperimento, ci saranno ancora tante cose da rivedere, da rivalutare. Ad esempio, ora attualmente allo stato attuale il protocollo non prevede che sulle riprese di gioco intervenga il VAR, ma io ti faccio un esempio semplice: calcio d'angolo, la palla viene buttata in angolo da un attaccante, l'arbitro non se ne accorge e da quindi il calcio d'angolo non viene dal fondo, sul calcio d'angolo nasce una rete, c'è un gol sul calcio d'angolo e in quel caso il VAR non può intervenire. Esatto. Non può intervenire, è una situazione che si verifica, magari non si verificherà mai in tutto il campionato, però in caso si verificasse, spiegalo poi ai tifosi perché non è intervenuto il VAR, visto che tutti l'hanno visto e non chiaramente. Secondo me il caso più grave, lo dicevamo ieri, veramente è stata quasi una premonizione, ieri pomeriggio intorno alle 7, il caso più grave tra le 6 era, sì, è stato dal punto di vista regolamentare quello che poi è successo a Bologna. Sì, adesso abbiamo però voglio dire, qua bisogna dare a questo punto ordine ad arbitri e assistenti, mi rendo conto che è snaturare il gioco, che però il gioco non si ferma, perché mentre tu hai l'antidoto perfetto per un gol segnato in fuorigioco perché lo annulli, il contrario è un casino. Esatto, ma questo c'è già nelle direttive che sono state date agli appunto, arbitri. Ieri però ieri è un errore clamoroso. Sì, però un po' di rodaggio ci vuole, a prescindere da tutto. Per aspettare quell'attimo in cui poi c'è stato il tiro in porta, la rete, bastava poi pochissimo per capire che era un retropassaggio di destro e non una giocata. Lì bastava non fermare il gioco e sì, bastava non fermare il gioco, esatto. E invece sì, la cosa da fare in campo, anche quando non c'era il VAR, era l'arbitro che doveva comunicare, perché per l'assistente è difficile vedere il tocco di destro dell'attaccante o del difensore, in quel caso lì che passa la palla, che passa la palla indietro, che calciatore che passa la palla indietro. In quel caso lì per l'assistente lui vede il passaggio, però, ragazzi, il calciatore fuori gioco alza la bandiera. In quel caso lì l'arbitro che ha la visione libera in modo tale che però Andrea, ripeto, tu hai diretto quante partite in Serie A? In A 140. Ecco, 140 partite. Io credo che anche per gli arbitri che non sono nati imparati, serva un po' di rodaggio, no? Sì, cioè serva un po' di sintonia. Purtroppo anche quello che ci siamo detti in conferenza stampa, gli errori saranno e se ne potrà fare a meno, perché comunque l'errore fisiologico come in questo caso qua non può intervenire in questo caso il VAR, chiaro, perché è stato il gioco fermato, chiaro, prima, chiaro, non chiaro, si può fare nulla. Senti, fammi però sentire Andrea, scusa, introduciamo una discussione. Marcello da Cagliari, che è un ascoltatore, vuole entrare in argomento, così gli togliamo dubbi. Marcello da Cagliari, dica. Io buongiorno a tutti, buonasera a tutti, prima cosa. Niente, quello che è successo col Cagliari, allora gli è stato dato un calcio di rigore, l'abbiamo sbagliato, però il gol secondo me di Dybala era tocco di mano, giusto? Così hanno detto un po' tutti, però in questo caso non è intervenuto per niente il VAR. No, ma non l'hanno detto tutti. Non l'hanno detto, anche me lo sembra. No, nel senso troppi, che... Poi... Viva Dio, le polemiche continueranno, perché sennò se finiscono quelle... Quello è proprio un classico episodio dove... non c'è un'immagine chiara, nel senso che da alcune immagini sembra petto, da alcune immagini sembra braccio, e per cui non è stato cambiato il giudizio iniziale dell'arbitro. Quindi io francamente in quell'episodio lì mi sembra abbastanza marginale. È importante che sia stato il primo rigore, perché lì il contatto è netto e quello è stato un errore che è stato completamente, sarebbe stato effettuato, cioè senza l'intervento del VAR il rigore al Cagliari non lo davano ed era un rigore che c'era. Non ho capito Tagliavento, francamente, lo dico sinceramente. Te lo spiega De Marco. Sì, Tagliavento, quel caso è stato strano, tra virgolette, che si è andato a vedere lui stesso l'immagine dal video per valutare l'intervento, visto che comunque il contatto c'è stato, un contatto negligente all'interno della rete di rigore. Probabilmente è stato il messaggio da parte del VAR di guida che gli ha detto che per lui non era un contatto da rivedere, perché era un contatto come hai detto tu, quello di Dybala, di centralità dell'area. Però allora perché fare, poteva fare la rivedere, ecco. Se fosse andato a rivederlo magari sarebbero generate tutte le polemiche, sia prendendo o meno poi la decisione del calcio di rigore o no, ma anche perché dell'area. Di fatto, scusate, allora qui ci ha spiegato Rosetti l'altro giorno che la decisione finale la prende l'arbitro di campo. Esatto, certo. Sì, perché poi l'arbitro ci mette la faccia. Se nel momento nel quale l'arbitro inquadra il monitor, insomma, vuol dire che sta avvenendo. No, sì, è sbagliato, perché a quel punto lì ingenera negli spettatori l'idea che la decisione non sia stata presa da lui. Sì, beh, sicuramente lui non ha visto, no, non ha visto che quello che è successo è che guida gli ha detto aspetta un dubbio. Aspetta, ho un dubbio, poi gli ha detto no, è tutto a posto, hai ragione tu. Ma sì, sicuramente sarà andata, secondo me non aveva ragione, perché quella calcio di rigore in questo modo, e quindi lui non ha ritenuto opportuno andare a vedere, visto che lui non gli ha detto guarda che per me, perché solo in caso appunto di chiara situazione evidente, lì c'erano, abbiamo visto anche noi tanti replay per vedere il tocco che c'è stato del Miranda. Esiste, Andrea, un tema di personalità degli arbitri, un discorso che abbiamo fatto qualche anno fa con gli assistenti di porta, no? Quando c'era qualche assistente come Orsato, come Rizzoli o come Rocchi, insomma gli arbitri più importanti in porta, in qualche caso si diceva che insomma chiaramente fa parte della natura umana, la loro comunicazione pesava più di quella di un arbitro giovane. Cioè lo stesso discorso. Però a livello di esperienza, non è tanto a livello di esperienza, magari a livello di decisionalità anche sul campo. Abbiamo visto dei filmati, ad esempio con Orsato che faceva il VAR ai campionati del mondo Under 20, dove sull'intervento sto molto bravo a valutare, ma nell'immediatezza un episodio davvero difficile da vedere in una semifinale, che era molto difficile da vedere. No, poi un conto che abbiamo mondiale Under 20, di un arbitro con poca esperienza, visto che è stato promosso quest'anno in Serie A, e ha fatto nell'amichevole Milan, Milan Betis Siviglia, che era comunque un arbitro esperto come doveri, ha preso lui le decisioni del calcio di rigore per il fallo di mano e di annullare il certo, gol. Certo. No, ma ti ripeto, Andrea, ci vuole rodaggio e allenamento da parte di tutti, quindi questo lo avremo con il tempo. In futuro, assolutamente, ma già. Come tempistica. Già, ma infatti, la tempistica è fondamentale. È meglio prendere 30 secondi, un minuto in più, ma prendere la decisione giusta piuttosto che fare velocemente il filmato e magari sbagliare. Chiaro. Grazie Andrea. Un abbraccio, grazie. Ci fermiamo per il traffico e poi ascoltatori 800240024 numero verde. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Ascoltatori, eccoli qui, 800240024, tutti convocati. Tony, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere solo, ma tipo il rigore della Fiorentina, che si fermano un minuto e mezzo, quasi due minuti, che secondo l'arbitro poi non è rigore, io lo guardo ancora adesso, ma per me è rigore con espulsione. Dunque, cosa serve sta VAR? Non è tutta una porcata, che è tutta una finta alla fine. Adesso siamo sempre come vogliono loro. Ok, ho capito. Adesso siamo alla. Ma io lo sapevo, se facciamo la moviola in campo, poi c'è il processo alla moviola. Siamo ormai oltre, no, Pierluigi? Sì. E dunque, moviola, quindi processo televisivo e poi processo alla moviola perché c'è il grande burattinaio. È ovvio. No, ma il grande burattinaio, guarda. Ma dai, ma no, ma innanzitutto va accolto lo spirito e il senso, che non è che tutti i paesi hanno messo il VAR. Noi siamo con Germania e Portogallo i paesi che lo stiamo sperimentando. Quindi, secondo me, questa cosa qui, in un paese di malpensanti, di maliziosi, di pacchiavellici, è un dato sì, oggettivo. Cioè, l'Italia fa una cosa che in ogni caso limiterà gli errori. Quindi, questo secondo me è il principale argomento. Lo sai, io poi sono tendenzialmente un po' naif, però è vero, naif, è oggettivo, no? Cioè, l'Italia non è un paese che si è abbarbicata dal punto di vista calcistico al fatto di dire non la tecnologia. L'Italia è un paese che di fronte a questa possibilità ci si è abituata. Sì, ma che ha bisogno, questo, di maledetto bisogno di certezza del diritto. A me piacciono le imperfezioni in ogni cosa, mi piace il fattore umano in ogni cosa, e quindi insomma ce l'avrai sempre, perché l'hai visto ieri. Me lo auguro. Gualtiero, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Sono un moviolista nato. Moviolista? Ah, beh, bene. Allora andiamo d'accordo da noi. Per una vita. Mi viene da ridere a vedere l'ingrandimento con la lente del primo gol che viene attribuito a Autorete. E subisce il fallo. Ascolti, Gualtiero, mi fa un favore, spenga la radio un attimo, perché se no sentiamo ritorno in cuffia, questioni tecniche. Grazie. Con la lente che ingrandisce quasi un tubo. Il fallo sul primo, come ha detto prima Mondonico, mi pare, sì. In un ingrandimento di fenomeni che avvengono in aria ci sono diversi falli. In questi casi, se volete escluderne uno, non è andare a pensare male, è pensare giusto. Avrebbero ugualmente segnato, forse. Il primo gol è nato su questa imperfezione. Sì, dunque che si fa? Che si fa? Si torna indietro, si cancella tutto, poi arriviamo al, tu lo sai Pierluigi, al pilotaggio, alle immagini pilotate di cui si è parlato anche l'anno scorso. E questo te lo faccio vedere, quell'altro te lo faccio vedere, perché c'è il insomma. Secondo me è anche giusto, va detto, va ricordato che non è che gli arbitri, il VAR e l'assistente vedono le immagini che Mediaset o Sky gli fanno vedere, o esatto, la regia di Impro che esatto, fanno vedere. Loro come tu ci hai spiegato a tutti i segnali, quindi e questa cosa qui, sai, in passato questa roba aveva fatto qualche polemica così da addetti ai lavori. Secondo me è molto sano che ci sia un'organizzazione super partes, che non sia riconducibile a un network piuttosto che un altro, esattamente. Succede per l'NBA, per la Formula 1, che ti dà l'immagine, perché qualora dovesse esserci mai una protesta, non è che te la vai a prendere con Sky, esatto, o con Media. No, ma infatti è quello che abbiamo detto, però mi interessava che tu ripetessi quello che hai detto a suo tempo a proposito della differenza tra la gestione interna e la gestione internazionale, sulla richiesta dei replay, sulla richiesta delle immagini, ma questo l'avevo fatto quando era venuto fuori discorso. E ti ricordi con Pepe Bonici? Sì, no, c'è assolutamente, anzi, sì, sulle famose, sì. C'è un segnale che arriva alle due televisioni che è esattamente la stessa filosofia di quello che succede, per esempio, in Champions League. Cioè, non è che ogni paese ha le sue immagini e ha le sue telecamere, c'è una regia unica con la possibilità poi per i vari network, esattamente come succede anche in Italia, di fare delle integrazioni. Perché sì, tu hai una famosa regia italiana e internazionale nei mezzi di Champions League e al tempo stesso Sky integrativa. Esatto, che ti dà l'integrazione, per cui tu hai, noi per esempio mettiamo immagine solo premium, quando c'è un'immagine dedicata, Sky fa la stessa cosa, con le telecamere loro, ma il segnale è un segnale unico. E per quello che riguarda invece il VAR, va ricordato il grandissimo gioco di parole, grande qualità, è che l'arbitro VAR e il suo assistente hanno accesso a tutti i segnali, sì, quindi sì, non c'entra minimamente nulla la regia di Sky o di Mediaset, ed è giusto così, ripeto, è giusto così. Ma io sono ottimista, credo che non sia andata male, dispiace molto per Bologna, perché a Bologna è successa una cosa che era pensabile, era ipotizzabile. Mentre l'errore, secondo me, perché tale è su Inter-Fiorentina, è un errore di valutazione, l'errore di Bologna-Torino è un errore proprio di applicazione, di applicazione che può succedere sempre così, è chiaro. Perché se non si lascia giocare nelle situazioni nelle quali c'è un dubbio sul fuorigioco, il fuorigioco, che è la più grande area nella quale viene migliorata la situazione grazie al VAR, continua ad avere questo baco, cioè annulliamo i gol dove scopriamo che c'è un fuorigioco ma non convalidiamo i gol dove non c'era il fuorigioco. Esatto, è quello che si diceva prima con Mondonico sul ruolo del guardarine. Loretta, buongiorno signora. Buongiorno, sono Loretta di Ferrara. Loretta di Ferrara. Sarà velocissima. Prego Loretta. Io gradirei sapere da voi, spesso vi seguo, perché è piacevole. Grazie. L'ora di pranzo più o meno seguire la vostra trasmissione. Vorrei sapere però perché continuate a parlare solo delle squadre, diciamo, titolatissime, e di tutto quello che spendono, di quello che falta il giocatore, di quello che falta l'altro, e delle neopromosse come la SPAL, per esempio. Signora, mi ha fatto un altro straordinario stasera, 23:30 Italia 1, mi raccomando, cioè, fra gli altri ovviamente, cioè Semplici, allenatore della SPAL, che ieri ha poi signora, perché, poi le mando un documento scritto da Pierluigi Pardo, perché ormai siamo passati allo scritto, mandiamo il volantino a chi fa queste domande legittime, legittime, però insomma stiamo parlando di bacini d'utenza, stiamo parlando di questo discorso che abbiamo fatto molte volte, tanto che io proporrei, Pierluigi, se sei d'accordo, di passare a, non lo so, lo pubblichiamo sul sito di Radio 24. Sembra sempre che ci sia sembra sempre che ci sia qualcosa di male nel invece non c'è niente di male, significa cercare di parlare di cose che interessano a una quantità più ampia di persone. Certo. Detto questo, la porta di tutti i convocati, quella di Tikitaka, aperte, è aperta a tutti, tant'è vero che stasera abbiamo Semplici, che fra l'altro è un personaggio straordinario, la SPAL, che fra l'altro è la squadra di mia nonna, che non è che fosse particolarmente tifosa, ma insomma mi sta anche particolarmente simpatica per questo, perché mia nonna era di Salara, provincia di Rovigo, e potrei cominciare a dire pure filastrocche, che è una storia fantastica, che torna dopo quasi 50 anni in Serie A, e quindi figurati, c'è voglia di ascoltare questo parere. Però quello che abbiamo detto mille volte, la porte di Tikitaka, tutti i convocati, Sky o Media, se possano cominciare un telegiornale con non so, con un posticipo di Serie B e non parlare di Juve, Inter, certamente è antistorico quello che volete. In ogni caso, le porte sono aperte, importante che qualcuno ci entri, e qua sappiamo, per tornare al discorso di prima, che entrarci, insomma, lor signori sono un po' circospetti. Pier, ci sentiamo domani? Certo, chiaro. Buon Tikitaka questa sera alle 23:30. Tranquillo, dopo cena. Dai. Ciao Pierluigi. Grazie a Claudia Schiattone, il nostro dottore Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.